bienvenidos a todos los patos. Ed eccoci qua, sono le 21.09, stasera siamo un po' in ritardo, ma è già un miracolo che sono qua. Ottobre è il 99.6 di Radio Onda d'Urto e questa è la 60ª puntata di Radio Bam. Io sono Franz e questa trasmissione è curata dalla redazione di BAM Magazine, la fanzine su rock and roll underground che trovate su www.bam-magazine.it, su myspace.com/bammagazine. Torniamo in onda dal vivo dopo 3 settimane. Io sono stato in America per 2 settimane e mezzo, che culo direte voi, ma che fatica dico io. Sono appena tornato dall'aeroporto, quindi ho un jet lag tremendo. Sera è quasi ora di andare a dormire, andare a fare serata, per me invece è il mattino, appena fatto colazione. Stasera non c'è neanche il mio fido co-conduttore Cischi ad aiutarmi, quindi mi scuso se sarò un po' addormentato o se le mie parole non avranno senso, o almeno meno, non hanno meno senso del solito. Ma proprio visto che sono stato in America, un sacco di cose da raccontarvi, probabilmente un sacco soprattutto di dischi da suonarvi. E iniziamo subito con cosa? Con cosa se no? Con i Mojomatics, il loro nuovo singolo uscito in concomitanza col loro primo tour americano, uscito per la Dutch Master Records, ce lo andiamo a sentire, loro sono i Mojomatics e questa è Another Chip on Me. Call me to get a falling in. Call me to 99.6 di Radio Pierce Barros con In My Brain, tratto dal loro 7 pollici Caroline, autoprodotto dal loro stesso con la loro musica Constant. Pierce Barros, che ho visto in quel di Portland al famoso Zion Garage Fest, che si è tenuto circa una settimana fa. Per chi di voi non lo sapesse, la Zion è una macchina americana che quando si trova veramente bruttissima e ha chiamato gruppi garage da tutta l'America e alcuni anche dall'Europa, tra cui appunto i nostri italiani omaggiomatici. Ho avuto la fortuna di andare là con loro e di farmi un tour di 2 settimane in compagnia dei Jail, che è il secondo brano che abbiamo sentito stasera, con Always Wrong, tratto dal loro LP d'esordio, anche questo autoprodotto, Jail, con il mente del Goodnight Loving, sempre da Milwaukee. Hanno un suono abbastanza particolare, mischiano un garage comune Goodnight Loving, un po' di pop e soprattutto molto indie, un po' sub pop, un po' shins, e poi appunto i Mojomatics con Another Cheat on Me, tratto dal loro 7 pollici appena uscito su Dutch Master Records, il loro primo 7 pollici di produzione americana, e che appunto ha inaugurato il loro primo tour di 2 settimane in compagnia dei Jail. Torniamo al Zion Garage Fest di Portland. 4 party su 4 diverse venue nello stesso giorno, quindi era abbastanza difficile riuscire a vedere, anzi era praticamente impossibile riuscire a vedere tutte le band di cui si poteva essere interessati. Io comunque sono riuscito a vedere qualcosa abbastanza buono, altro invece non era come almeno della qualità che mi sarei aspettato. Uno dei gruppi che assolutamente non mi ha deluso è una delle nuove produzioni Goner Records di Memphis. Loro sono un gruppo del Nebraska, se non vado errato, si chiamano Box Elders e vanno per la maggiore nel giro garage rock and roll adesso in America. Li abbiamo già sentiti qualche settimana fa, li risentiamo adesso con un brano che introduce il loro nuovo LP su Goner Records, dove sono i Box Elders. Same, and now I follow it like a

di ritorno dagli Stati Uniti, dove però ho avuto la possibilità di acquistare un bel po' di LP che vi sto passando stasera. L'ultimo è proprio quello di Fever B, appena uscito su Burger Records. Fever B dei Fevers e degli Skipper, che tra l'altro saluto il mio caro amico B, sta per Brian, che ci ha portato in giro a San Francisco, ci ha fatto vedere in giro la città, ci ha fatto vedere i negozi di dischi e ha appunto pubblicato appena adesso questa LP per la Burger Records, che è un'etichetta di Los Angeles, molto molto buona, dove tra l'altro ho passato una delle mie notti, ho proprio dormito praticamente io e Mojomatix per terra in un negozio di dischi. Abbiamo dormito proprio poco, perché siccome il negozio sta aprendo proprio in questi giorni, c'era un sacco di scatoloni di dischi a un dollaro da scoprire, insomma abbiamo dovuto comprare per tornare a casa in Italia un bagaglio addizionale pieno zeppo di dischi, una specie di mega valigione con 50 kg di dischi. Li sto passando stasera, tra cui prima di Fever B Greg Cartwright con il suo live al Circle A in Milwaukee, appena pubblicato dalla Dusty Medical Records, con I Don't Care. È un live appunto solo acustico di Greg Cartwright, dei Raining Sound, degli Oblivions, dei Compulsive Gamblers, dove suona un po' tutto il suo repertorio, alcune cover. L'LP non si trova ancora in Europa, ma verrà distribuito presto. E contiene tra l'altro un 7 pollici molto carino di una registrazione alla radio di Greg Cartwright insieme ai Goodnight Lovin' di Milwaukee, e vi passerò probabilmente nelle prossime settimane. Prima di Greg Cartwright, Mark Sultan con il suo 7 pollici su Sub Pop, registrato qua in Italia allo Side Inside Studio con Hold On. Mark Sultan, che appunto era anche lui al festival Sion Garage Fest, organizzato appunto da Vice, a cui sono stato 10 giorni fa, uno dei live più belli tra l'altro, quello di King Khan e Barbecue. Qua intanto spaccano le vetrate della radio per uccidere mosche. Comunque, prima di Mark Sultan, i Box Elders, di cui vi ho già parlato, con Jackie Wood, tratto dal loro LP d'esordio su Goner Records di Memphis. Tra l'altro, Box Elder saranno in Italia per un'unica data, l'8 novembre, organizzato proprio da BAM Magazine, in quel del Davis Den di Salso Maggiore Terme, orario aperitivo, ingresso gratuito. Ripeto, l'8 novembre è una domenica. Si ritorna in Italia, si ritorna alla solita bella routine di concerti che organizziamo un po' in giro per lo stivale. Questo sabato Halloween, il 31 ottobre, abbiamo organizzato release party con molto ritardo del 7° numero della nostra rivista. Si terrà questo sabato alle ore 9 puntualissimi in quel del town di Fidenza in provincia di Parma. Ben 6 gruppi faranno parte della serata, più DJ set e quant'altro. 5 euro circa l'ingresso. Tanta simpatia, felicità, insomma voglia di divertirsi. Quali gruppi saranno? Insomma, vediamo se me li ricordo tutti. I Cusack, i... Jetlag inizia a farsi sentire. I Suinage, i Laser Geyser, gli ED da Bologna e due gruppi austriaci, ovvero i D-Cracks e i Ratcliffs. Ok, ce l'ho fatta. E proprio alcuni di questi gruppi andremo a sentirci adesso, non ho qua proprio tutto, ma insomma mi perdoneranno i gruppi che non passeremo. Andiamo a iniziare proprio con i Laser Geyser, sono un duo di Bologna, hanno appena pubblicato un 7 pollici autoprodotto d'esordio e ce lo andiamo a sentire adesso. Sono i Laser Geyser con Throat Miners. Io intanto vado a prendermi un bel caffè. Better. Getting overwhelmed by your decisions, oh whoa. Getting overwhelmed by situations. Getting overwhelmed by your decisions, oh whoa. Getting overwhelmed by television. No time for a fool around. This is an awful town. Getting older while we're looking on. It gets me down. Doesn't even matter, we own town. Getting overwhelmed by your decisions, oh whoa. Getting overwhelmed by television. No time for fooling around. This is an awful town. Getting older while we're looking on. It gets me down. This awful town. Where the local people go. Erano i Suinage con This Awful Town, tratto dal loro CD, dal loro tre pezzi sul CD compilation dell'ultimo numero di Bam Magazine, che verrà presentato proprio con un live dei Suinage questo sabato 31 ottobre per la festa di Halloween in quel del Town di Firenze a Parma, ore 9. Suinage, Cusack, ED, Laser Geyser, che siamo andati a sentirci invece a inizio di questo set. Ratcliffs e Dick Rex. Prima di Suinage abbiamo sentito proprio Cusack con Gimme the Shell, tratto appunto dallo stesso CD compilation di cui sopra, e abbiamo iniziato con i Laser Geyser con Throat Miners, tratto dal loro recentissimo 7 pollici d'esordio che sono autoprodotti. Magari riusciremo a sentire i Laser Geyser in una delle prossime puntate di Radio Bam. Tal proposito, nella prossima puntata in onda, in diretta, martedì prossimo, sempre dalle 9 alle 10, avremo ospiti in studio gli Yam Yams. Probabilmente ci suoneranno anche qualche pezzo in acustico, almeno così spero. E che altro? Yam Yams che suoneranno la stessa sera in quel del Lio Bar qui a Brescia, quindi non perdetevi dalle 9 alle 10, partite verso il Lio Bar, ascoltate la Radio Bam, poi venitevi a farvi una birra e godetevi gli Yam Yams. Aperti tra l'altro dal nuovo fenomeno pop punk qua di Brescia, ovvero i Ricco Bellis, in cui milita il nostro caro amico Gufo di Punk Rock City, che salutiamo. Quindi gli Yam Yams, che tra l'altro faranno anche due date insieme ai Queers in quella del Music Sound di giovedì prossimo a Como e al Medley di Piacenza sempre venerdì prossimo. Insomma, potete guardare comunque tutte le date su myspace.com/ILoveYamYams. Ma non perdiamoci troppo in discorsi perché il tempo vola, sono le 21.48 e io ho comprato altri dischi durante il mio viaggio in America che vi voglio passare. Non so quante puntate necessiterò, ma insomma iniziamo subito. Now I'm going to get you when you're fired. Now I'm going to get you when you're fired. Iniziano facile veramente più. Questi erano Schalzi and Watzelheim. Oh mio Dio, devo smettere di comprare dischi che non riesco a pronunciare. Ed è il nuovo 7 pollici edito dalla stessa Burger Records, di cui abbiamo già parlato prima, un negozio e etichetta di Los Angeles, tra l'altro specializzato in uscite in cassetta. Insomma, è un'etichetta discografica che è nata, e un negozio di dischi che è nata soprattutto basandosi su vinile e musica cassetta. Insomma, non può che avere tutta la nostra stima e il nostro supporto, visto che non sarà probabilmente facile continuare, ma glielo auguriamo di tutto cuore. E il pezzo si chiamava When You're Alone. Tra l'altro, proprio in giro in America ho notato quanto ormai la cassetta comunque continui ad andare, continui ad essere ascoltata. Bene, bene, perché il CD è sicuramente il supporto più inutile ormai rimasto, lo puoi copiare e fare direttamente a casa tua senza alcun problema, e quindi non hai più ragione di esistere, mentre il nastro ha anche un suono migliore per quanto mi riguarda. Sono le 21.52 e io non inizio, non faccio veramente più, il mio jet lag inizia veramente a confondermi le idee, ma so di per certo che dopo di noi alle 22 in punto andrà in onda Desert Caravan, e vedo già pronti i ragazzi in studio, e quindi non mi resta altro che suonare l'ultimo pezzo per concludere questa 60esima puntata di Radio Bam, la puntata del jet lag. E darvi appuntamento a settimana prossima, sempre dalle 9 alle 10 di martedì. Ospiti gli Yam Yams, un sacco di buona musica di rock and roll underground. Vi invito poi a visitare il sito www.bam-magazine.it. Nella sezione radio show trovate tutti i podcast, tutte le tracklist, tutte le informazioni delle puntate mai trasmesse su questa radio. E quindi trovate un bel po' di archivio per farvi due risate. Intanto in sottofondo passano cose a caso, va bene, niente. Cosa andiamo a sentirci per ultimo? Ma direi che potremmo andarci a sentire un classicone, ovvero un bel Neil Young, un brano tratto da uno dei suoi migliori LP, ovvero da Zuma. Neil Young, che tra l'altro ultimamente ha pubblicato il suo attesissimo Archives, ovvero una serie, un box set fantasmagorico di 8 CD o 8 DVD o 8 Blu-ray, a seconda insomma della vostra situazione monetaria. Insomma, io non sono potuto permettere nessuno di questi ancora, ma spero proprio di farmi a quello CD. Sono riuscito comunque a sentirlo ed è veramente, merita veramente tantissimo. E che dire, finiamo con Neil Young. Vi diamo appuntamento settimana prossima dalle 9 alle 10, dopo di noi Desert Caravan, con il mezzo del desert rock dello stoner. Lui è Neil Young con Looking for a Lover. A settimana prossima, io sono Franz, qui dal 99.6 di Radio Onda Turco. Ciao! Pictured her to be. In her eyes I will discover another reason why I want to live and make the best of what I see. Where the sun hits the water and the mountains meet the sand, there's a beach that I walk along sometimes. I'll meet her. time. Looking for a love that's right for me. I don't know how long it's gonna be, but I hope I treat her kind and don't mess with her mind when she starts to see the darker side of me. I've been looking for a lover, but I haven't met her yet. She'll be nothing like I pictured her to be. In her eyes I will discover another reason.